Don Donato tira le file. Tira le file. Sunt lacrime rerum si dice tante volte. Ci sono anche delle imperfezioni in tutto quello che si fa. È la minima interpretazione che si debba dare a questa espressione. E questa espressione sunt lacrime rerum si può applicare anche al nostro convegno. È partito con alcune prospettive, secondo alcuni traguardi, e ha raccolto qualche cosa. Nel breve tempo di una mezz'ora che mi è stata indicata come tempo in cui prendere la parola, io ripeto nuovamente grazie a tutti quelli che sono intervenuti, grazie a Don Luigi, grazie a quelli che sono dell'Istituto di Scienze Religiose in Trento, che hanno preparato loro e questo convegno. Ecco. Grazie soprattutto a quelli che lavorano in questo momento. Dirò in alcuni punti ciò che sembra emergere così a caldo a conclusione di queste ore di studio, rimandando alle conclusioni, così come appariranno sugli atti del convegno, per un approfondimento più maturo, ovviamente, più completo, più lucido e determinato intorno alle stesse conclusioni. Anzitutto, e questo è il primo punto, c'è un problema, ed è il problema della stessa possibilità di una teologia che emerga dal convegno. Il quinto centenario dello sbarco di Cristoforo Colombo in America Latina è ormai prossimo, il 12 ottobre del 92. Su questo avvenimento oggi si hanno valutazioni molto differenziate. Si va da giudizi celebrativi ad interpretazioni assai negative, come si può avvertire nel seguente titolo di un articolo di Somoza: quel giorno maledetto che Colombo ci scoprì. Chi vi vede soprattutto un momento importante della missione evangelizzatrice della Chiesa fra popoli che ancora non conoscono Cristo, e chi sostiene che allora in America Latina e nei Caraibi è stato perpetrato il più grande genocidio che la storia ricordi. E questo, per esempio, un libro che mi sono letto di Leonardo Boff, uscito per Cittadella Editrice, 500 anni di evangelizzazione, dalla conquista spirituale alla liberazione integrale. Senz'altro è necessario rivisitare più criticamente la storia dell'anno 1992 e dintorni. Bisogna cioè, oltre che giudicare le cose dal punto di vista dei bianchi europei, valutarle anche dal punto di vista agli inizi degli indios, in seguito degli afroamericani. Oltre che configurare il discorso storico sulla base delle memorie dei vincitori, sentire e leggere pure quelle dei vinti. Qui affrettate e sommarie autoassoluzioni non tengono. Coperture storiche e mascheramenti di situazioni reali non ripagano. Qui si richiede la lucida demistificazione di molti luoghi comuni e la puntigliosa ricerca della verità storica delle cose. Prima ancora si postula la volontà di ascoltare l'altro, di apprezzarne la cultura e la diversa ma ricca identità, si postula sia interiore disponibilità ad accettare la propria responsabilità circa quanto non si può più superficialmente giustificare, sia la forza di chiedere perdono. Ciò comporta, ed è questa la cosa che mi interessa di più, qualcosa relativo anche alla tematica della teologia. Secondo, si danno degli aspetti metodologici che riguardano la ricerca storica e nello stesso tempo, pertanto, anche la dimensione storica della teologia, e lo stesso perciò far teologia. Anzitutto, un corretto giudizio storico su 1492 e dintorni impegna gli elementi formali e essenziali che entrano a costituire un discorso criticamente valido sulla metodologia storica, al fine di non rincorrere in giudizi anacronistici spiazzati rispetto al passato, come avviene ad esempio quando, procedendo in modo piuttosto sbrigativo, si vorrebbero colpevolizzare concezioni e prassi missionarie di allora non sistematicamente attente alla metodica attuale della inculturazione, o Talora, si dice, si riterrebbe di poter individuare in processi teologici di allora, aperti ai poveri di allora, le prime espressioni formali della odierna teologia della liberazione. In particolare, la valutazione adeguata del 1992 e della storia successiva, storia pure di oppressione e di umiliazione di popoli, in particolare storia di enormi proporzioni, infamante umanamente ed antievangelica, della tratta degli schiavi e della schiavitù dei neri, comporta l'attenzione ad una molteplicità di aspetti culturali, sociologici e teologici. Solo nella valutazione dell'insieme dell'avvenimento si può avere una qualche percezione migliore dell'avvenimento stesso. Pertanto solo mediante i vari approcci disciplinari, secondo la loro specificità metodica, è possibile comprendere un po' meglio la globalità dell'avvenimento, cioè l'avvenimento. La Chiesa dei missionari e dei pastori, quella Chiesa che ivi in America Latina ha operato e anche qui come punto di partenza e di ricezione, è stata soltanto uno dei seguenti cinque attori della conquista, mi permettete il termine questa volta, dell'America Latina, prima del 1530. Lo Stato spagnolo, la nobiltà di conquistatore, il capitale monetario spagnolo ed europeo, la Chiesa e il missionario, e evidentemente, e questo va in primo luogo, ovviamente, l'indio e lo schiavo nero. Se è contro la verità storica negare ogni connivenza da parte della Chiesa con il male, è anche contro la verità storica fare di ogni erba un fascio, generalizzare l'episodico e interpretare l'azione missionaria della Chiesa in termini di pura conquista. La storia del 1492, oltre a molte, troppe pagine di violenza e di sangue, presenta pure tante meravigliose pagine di vita cristiana e di autentica civiltà umana, scritta da grandi missionari e da martiri per la difesa degli indios e dei negri. Anche loro ci furono profeti, come Bartolomeo de las Casas, 1474-1566, Bernardino di Sahagún, 1499-1590, e José de Acosta, 1540-1600. Infine, sempre metodologicamente parlando, ci si consenta di fare l'ultima rispettosissima osservazione. Nessuna cultura può ritenersi esente da imperfezioni e limiti, né credersi assolutamente immune da un certo processo che comporta per una dinamica interiore e o esteriore l'incontro con altre culture, un cambiamento, uno sviluppo, o forse anche il suo integrarsi in un'altra cultura e magari lo scomparire nella sua identità culturale secondo una vicenda pluriforme e complessa che le scienze umane, in particolare l'antropologia culturale nella sua ampia costellazione, stanno sempre meglio configurando. Terzo, il convegno. Collaborando sia con persone di buona volontà e di finissima sensibilità umana che si trovano non solo fra coloro che appartengono a religioni non cristiane, ma anche fra i non credenti, la biografia che vorrei presentare è molto vasta, anzi dirò che quella citazione che ha presentato Monsignor Tramontini circa queste varie interpretazioni critiche uscite su Critica Storica sarà presente negli atti, perché qui non ce l'ho, ma ce l'ho a Roma. Sia con gruppi e comunità che tentano di contrastare con le leggi di un sano e valido mercato o di un sano e valido ordine nuovo, ma sfruttamenti inumani dell'uomo, ispiranti a gestiti secondo piani egemoni schiavizzanti ai livelli economico e politico, culturale e strumentalmente religioso, la Chiesa Cattolica terrà nell'ordine nell'ottobre del 92 alla quarta conferenza dell'Episcopato latinoamericano un primo appuntamento ufficiale circa questa celebrazione. Anche altre confessioni e comunità cristiane si ritengono impegnate nella ricognizione storico-teologica del passato dell'America Latina e nel rilancio di un'opera di evangelizzazione e di umanizzazione. In questo contesto si pone questo convegno dell'Istituto di Scienze Giuse di Trento. Il convegno, che intendeva farsi piuttosto carico dell'altro, e l'arico qui è l'uomo dell'America Latina, in vista della costruzione di un unico mondo nuovo, pone davanti alla nostra considerazione alcune relazioni che sono state gestite da rappresentanti di ordini o di congregazioni religiose. traguardo finale era una emergenza teologica di problemi all'interno di un contesto storico. Così come era possibile rilevare questo contesto storico e rilevarne in origine le valenze teologiche ai fini di un oggi che fosse punto di partenza, sottraendo dall'oblio il meglio del passato, per un futuro di speranza. Che cosa è stato fatto? Io penso che, anzitutto, che le osservazioni critiche emerse nella discussione erano fondate. Certamente il momento della tratta dei negri, più di 8 milioni, sia pure con tantissimi tentativi di spiegazioni che si danno, a seconda dei vari livelli di avvicinamento, come anche il momento della evangelizzazione nel Brasile, Lusitania, così anche quello di mettere più a fuoco dei problemi nuovi, i fermenti nuovi di teologia per il nostro convegno, sono validi. E sarà possibile forse, studiando le relazioni, vedere che cosa di nuovo è stato messo in evidenza e tematizzare formalmente, mettendolo in evidenza, esplicitando questo qualcosa di nuovo. A me sembra che molte cose sono state dette di nuovo, anche se adesso non è possibile, vero, raccogliere e mettere in evidenza tutti questi vari elementi, ma nella conclusione sarà possibile metterli a nuovo. Sono molti fermenti belli che sono o esplicitamente stimoli di una nuova teologia, o almeno sono qualche cosa che può portare a piste nuove di teologia. Io dirò adesso mi fermerò su sei punti, ma molto brevemente, no? Più che altro cenni che mi sembrano da mettere in evidenza. Anzitutto è il luogo di partenza di questi missionari, la Spagna. Si è detto molto sulla Spagna. Io penso che in questo convegno sia stata un po' riscattata la dignità di questa nazione e alcuni elementi hanno messo in evidenza degli aspetti positivi e accanto a una letteratura che in qualche modo affossa la nazione leggendola in termini negativi. Potrebbe dire, se questo come premessa, che cosa hanno fatto gli altri stati non cattolici quando hanno fatto i conquistatori e i colonizzatori. E fare il paragone. Solo da questo paragone verrebbe fuori una ricchezza di dignità nella Spagna, almeno come intenti, almeno in alcune persone, però, che non c'è paragone. Bisogna vedere appunto in questo confronto anche la possibilità per superare una certa accusa infondata, se non altro da questo punto di vista, alla nazione. Poi un'altra cosa, il fatto che è messo in evidenza il fatto di questa riforma anticipata nella Spagna, una riforma anticipata sulla cosiddetta sulla riforma in senso tecnico. E questo è influsso, è l'influsso che ha avuto ciò nella evangelizzazione. Questo per me potrebbe portare una pista di riflessione circa quello che è il punto di partenza culturale e ecclesiale del missionario come un luogo che già determina, in qualche modo predetermina, perché è la precomprensione dell'evangelizzazione. E fare un capitolo al riguardo, vedere questo missionario che parte da un certo luogo cosa vanno a portare. Un terzo punto è anche quello del connubio fra la croce e la spada, cioè una certa interpretazione di politica, diciamo così, della Spagna di allora, già inaugurata nella conquista di Granada e poi come schema, con formulazione di proposta anche di là. Anche questo serve una pista, un luogo a tenere presente, perché ha la verifica della storia. Possiamo vedere come un principio che regge a un certo punto domina tutta una evangelizzazione. Anche questo mi sembra una cosa che possa. Poi anche una pista di teologia da portare avanti per vedere, ecco, in che senso le nazioni, in quel caso l'imperatore Carlo V, ha potuto portare avanti questa istanza data ai missionari, soprattutto attraverso il patronato, che è uno dei luoghi che non è stato presente, che aveva un'immensa importanza nelle missioni, sto qui adesso a presentare i vari punti, nella missione stessa. E l'impegno è questo insistere da parte del sovrano, l'imperatore, del connubio della dottrina con la giustizia, nel senso che non c'è dottrina se non all'interno della giustizia. Già qui si dà un luogo che si potrebbe approfondire. Un re, non sei un Carlo mai, non è che so io, un cittadino che so io, però che dà una indicazione all'interno proprio del patronato, per fare un certo esempio, no, di una evangelizzazione che deve portare avanti il soggetto uomo, che sia cristiano. E qui proprio quanto riguarda la Spagna. Mi trovo da alcuni punti buoni. Secondo punto. Il momento, rapporto fra conquista ed evangelizzazione, legame e distinzione, e la cosiddetta tratta dei neri. Il problema che c'è qui sotto è una domanda radicale. Allorché ci sono delle situazioni politiche o culturali in cui la Chiesa deve entrare come veicolo reale per fare evangelizzazione, che fa la Chiesa? Si ritira, non cammina su quella strada, cercando di portare avanti la purezza del Vangelo, oppure entra in quella strada e correndo anche il pericolo di inquinarsi. Questa è una cosa molto, molto importante. Perché noi, a teologi, il teologo a tavolino certamente ha una teoria, però più di una voce qui si è messa dicendo: voi teologi potete dire, ma noi che siamo missionari là, cosa facciamo? La vostra chiarezza, la vostra limpidezza, i vostri principi non sono sempre attuabili, a termine esatto attuabili. Allora io mi chiedo se è possibile colpevolizzare, generalizzando, alcune cose che non sono andate bene, dimenticando in questa mistura di evangeliazione all'interno della storia umana il bene che è venuto nonostante questi limiti che ci sono stati. Sempre ci sarà una incarnazione il Signore ha detto, andate, il Vangelo di Giovanni è molto chiaro, la Chiesa è nel mondo, voi andate nel mondo, il mondo vi amerà, vi odierà, il mondo è il luogo della vostra missione, il mondo è la vostra casa. E qui credo che è una cosa da tenere molto presente, e anche all'interno di questa esperienza missionaria, meglio essere, piuttosto dire nulla, che essere assenti. L'assente non evangelizza. Un altro spunto è il rapporto fra civilizzazione ed evangelizzazione. Il precedente era evangelizzazione e storia, così come è stata, così come era. Questo invece è civilizzazione ed evangelizzazione. Prima cristiano e poi uomo. Prima uomo e poi cristiano. C'è un rapporto di integrazione fra l'uno e l'altro. Oppure l'uno è l'altro. Qui qualche voce ha detto anche l'uno è altro. Qui non si può parlare di pre-evangelizzazione, ma tutto è anche l'illuminazione e evangelizzazione. Noi sappiamo che ci sono varie posizioni al riguardo. Quel che si può discettare in linea di principio teoreticamente, non sempre è facile farlo a livello della pratica. Io ritengo che realmente laddove si umanizza, ivi si evangelizza, se c'è una ispirazione teologale a fondo, perché questo è già all'interno di una visione ampia della salvezza, che è incarnazione, già liberazione salvifica. Tuttavia questo problema che è emerso parecchie volte oggi, civilizzazione, umanesimo, evangelizzazione, eccetera, è certamente un fermento nuovo. E io sono d'accordo con quelli che erano per una tesi piuttosto massimalista, laddove c'è una non prima umanizzare e poi evangelizzare, ma già l'umanizzazione è una evangelizzazione, perché si fa già l'uomo nuovo. Un altro spunto è quello del rapporto fra storia salvifica e storia, diciamo così, la storia salvifica nei suoi vari aspetti, cioè la storia profetica, diciamo così, ebraico-cristiana, categoriale, usare Carrillo di Rane, che è, e l'altra parte, la storia trascendentale, la storia generale, eccetera, eccetera. Che rapporto c'è fra queste due storie? È l'una inserita nell'altra? Anche qui ci sono stati vari aspetti. C'è una separazione l'una dall'altra? Guardate il problema delle religioni non cristiane e delle religioni cristiane. o della rivelazione, che poi è lo stesso, della rivelazione non cristiana e delle rivelazioni cristiane, ebraico-cristiane. Le posizioni sono parecchie, lo sapete, certamente si esclude una separazione, nel senso che veramente l'una esclude l'altra. C'è una distinzione, ma sulla base di che cosa questa distinzione? Nel senso che prima ce n'è una, poi ce n'è l'altra, in modo che la seguente supera la prima? Oppure nel senso che una è con l'altra, una contemporaneità? Io mi domando se in ciascuno di noi non ci sia contemporaneamente un qualcosa che ripete la rivelazione naturale e un qualcosa che e perciò non è ancora stata formalmente cristianizzata, perché è ragione, è qualcosa che è rivelazione soprannaturale, e categoriale, eccetera, eccetera, storico, profetico, eccetera. Io credo che anche qui è difficile fare un discorso sia teoreticamente che un discorso anche farlo pratico. Ritengo che ci siano vari momenti di un'unica storia della salvezza, e forse guardando l'assolutezza del cristianesimo secondo le varie, i vari 4-5 interpretazioni che ci sono, è necessario dare dignità e identità e in qualche modo cristiana a queste storie che non sono ancora formalmente cristiane. La presenza dello Spirito Santo in queste storie purificate, elevate, promosse, certamente è una pista di orientamento che è da portare avanti anche in questo convegno. Un altro punto, l'evangelizzazione e i carismi. Abbiamo parlato dei rappresentanti di varie comunità religiose. Il problema dell'evangelizzazione e dei carismi si pone immediatamente. In che modo il carisma di un ordine o di una congregazione interviene nella configurare l'evangelizzazione stessa? Ora, è ovvio che un non religioso, un non ordine religioso, un ordine congregazione sia più legato a quello che sono le istituzioni. Mi sembra che sia ovvio, storicamente. E mi sembra che anche il carisma dei religiosi porti qualcosa di nuovo all'interno della evangelizzazione stessa, per qualcosa di nuovo per cui lo Spirito Santo li ha suscitati e che deve tradursi pure in termini di evangelizzazione. Sono pienamente d'accordo con questo profetismo utopico e gli altri carismi degli altri ordini di congregazione, secondo il loro vario, la valenza carismatica, come ricchezza all'interno della evangelizzazione. E non ci saranno state sufficienti anche i limiti che ci sono stati per negare il valore e la grandezza di questi carismi nella storia dell'evangelizzazione. Il meglio è certamente il negativo. Io non credo che si possa dare un giudizio storico e teologico diverso, e credo che il carisma dei religiosi deve oggi ancora di più essere valorizzato, portato avanti all'interno di una ecclesiologia di chiesa locale in vista di un'unità pastorale con tutti quanti gli altri componenti della nostra. Ad ogni modo questo è un tema teologico da regolare. Un altro punto, l'inculturazione. E c'è stato un primo punto, è un fatto, è stato inculturizzato il Vangelo, non è stato inculturizzato, nel senso comune della parola, è entrato, c'è una base cattolica nella Chiesa, o non c'è, da questo punto di vista semplicemente. Certo, c'è stata una risposta che è andato per lo più nel senso negativo, e perciò ha portato a un atteggiamento piuttosto di pessimistico. Io mi rifiuto, da quelle poche letture che ho, e anche pensando un po' più in profondità il problema della grazia dello Spirito Santo, dell'incontro col Signore Gesù che avviene all'interno del sacrario delle coscienze, della libertà, io trovo un po' difficoltà a accettare questa tesi, perché mi viene un po' ridotta a un livello sociologico. Indubbiamente l'aspetto fenologico sociologico ha la sua importanza ed è essenziale, c'è un momento essenziale, tuttavia non credo che sia l'unico a poter gestire questo problema. Credo che bisogna pensare anche a altri aspetti che sono a un altro livello in cui opera lo Spirito Santo. Questo è un primo punto. Poi c'è un altro aspetto che è ritornato, è quello dell'altro, l'incorporazione come incontro con l'altro. È stato precisato nei suoi due versanti, l'altro come identità culturale, il professor Potassi ha messo in evidenza molto bene questo, e l'altro come identità piuttosto filosofica, metafisica. Credo che l'uno sia quasi imbrigliato nell'altro. Non si può fare un discorso del primo senza il secondo e viceversa. L'uno rimanda all'altro, anche se situazioni pastorali o esigenze culturali o momenti specifici di approccio devono privilegiare l'uno e l'altro. Ovviamente questo è stato un aspetto molto bello, penso che sia un fermento di teologia che è stato affidato a questo convegno da portare avanti. C'è anche questa affermazione che, prima di passare ad un altro punto, a tenere presente, è quello che ha detto il professor Braito. A livello catechistico, non si può parlare di inculturazione nel senso tecnico della parola di oggi, si può parlare semplicemente di adattamento linguistico. Pur con i limiti con cui lui ha precisato questa affermazione, io credo che nei limiti in cui ha precisato questa affermazione penso che si possa dargli credito. Tenendo presente che per quanto riguarda un problema più vasto, la metodologia, se è possibile usare questo termine, metodo, senso comune della parola, che di oggi non può essere eseguita per allora. Però di fatto tutti questi esempi che sono stati fatti, tentativi sono stati fatti, scritti e citati, mi danno l'impressione che ci sia stato fatto un lavoro più grande di quello che è apparso e che può essere messo presentemente. Mi sembra proprio di poter dire, ma allora, perché questa benedetta gente non capiva che bisogna fare? Cioè, parlare di un vestito che si indossa al mattino, si indossa la sera e poi si cambia il giorno dopo, mi pare che sia una cosa che non tiene. C'è stato qualcosa, certamente, che hanno tentato anche antilitere questi missionari, anche se la sistematica teologica o che so io, la metodologia missionologica era diversa. Ecco, è passata la mezz'ora, perciò vado con l'ultima categoria, il povero. Il povero è, non è, si è detto chiaramente, è emesso a questo punto qui, non si parla più di povero dal punto di vista culturale. È un qualcosa da precisare subito quando si introduce la teoria povera, perché le culture, in questa pluralità di culture, in questa deocentrizzazione del cristianesimo, anche in questo sviluppo dell'antropologia culturale, eccetera, in questa dignità dell'uomo che in quanto tale ha una cultura ed è la sua cultura, secondo l'accezione di cultura della Gaudium Spes 38, ripresa poi così meravigliosamente bene nel numero 45 di Puebla, eccetera, eccetera, l'uomo è la sua cultura. Allora occorre giustamente tenere presente che nessun popolo, nessuna persona è povero da questo punto di vista culturale, basta che sia se stesso. Però c'è anche un povero dal punto di vista degli oppressi, e in questo senso, ecco, il termine oppresso e povero era una categoria che attraversava da portare avanti all'interno di una teologia della rivelazione, secondo i vari repressi, le varie correnti, e secondo anche il suo aggiornarsi, che è stato quest'anno e l'anno scorso, che va piuttosto verso una interiorizzazione. Ho potuto parlare con alcuni confratelli che sono venuti proprio 15 giorni fa dall'America Latina, di varie nazioni dell'America Latina, di questi studi che stanno uscendo, di una interiorizzazione della categoria povero, ecco, e di una escatologia di questa categoria. E poi una terza versione di povero, il povero in quanto dobbiamo essere tutti quanti noi, cioè povero nel senso di disponibilità verso la grazia del Signore, l'incontro con il Signore Gesù all'interno della sua Chiesa. La conclusione è proprio questa: c'è una speranza per il futuro dell'America Latina? La Chiesa può ancora, sulla base del passato, pensare con una certa speranza di ridare al povero, all'altro, la capacità di essere se stesso, in modo tale che questo altro sia, che l'indio sia il soggetto primario di evangelizzazione dell'indio, perché resta indio e così può veramente evangelizzare l'altro? Questo partire dall'indio in quanto tale è ancora possibile? In che misura è possibile? Ci saranno dei missionari che entrano e si fanno veramente compagno di viaggio con la sola bisaccia dell'amore verso Cristo, facendosi poveri fino in fondo, nel senso non di perdere la propria identità, ma di farsi terra latinoamericana. Perché l'indio stesso, il negro, gli abitanti di quella terra, come vale per noi questa cosa, diventiamo uomo nuovo nel Signore Gesù? Io penso di sì. E penso che le preghiere e le lacrime di tanti missionari che sono stati andati, che sono andati all'America Latina, abbiano sì forse fatto poca teologia, abbiano dato forse pochi fermenti espliciti e formali di teologia, però hanno dato una prassi generalmente che supera quello che può essere i limiti che si possono essere sempre nelle cose umane. Sunt rerunt lacrime rent in humanis. E ho finito. Grazie. Ecco, siamo arrivati allo stop.